La storia e la memoria di Dino Pesole. Prima alleati, la Germania nazista e l'Italia fascista, poi nemici dopo l'8 settembre del 43 e poi insieme nei difficili anni del secondo dopoguerra per costruire il primo embrione della nuova Europa che andava emergendo dalle ceneri del conflitto mondiale. Italia e Germania, due paesi che nel corso del Novecento hanno vissuto prima la tragica esperienza dei totalitarismi, della guerra e delle leggi razziali, poi hanno intrapreso un cammino comune, un rapporto profondo, forti sintonie ma anche reciproche diffidenze, come negli anni della Guerra Fredda. Non è un caso, tuttavia, che due dei principali artefici della costruzione europea siano un italiano e un tedesco, Alcide De Gasperi e Konrad Adenauer, uniti nel contrastare l'offensiva del gigante sovietico, nella fedeltà assoluta all'Alleanza Atlantica e all'europeismo. Sono molti e di grande interesse i libri pubblicati negli ultimi anni sull'evoluzione dei rapporti tra Italia e Germania dal secondo dopoguerra a oggi. Ne parliamo oggi con Filippo Focardi, docente di storia contemporanea all'Università di Padova, traendo spunto dal suo libro Il cattivo tedesco e il bravo italiano, pubblicato lo scorso anno dalla Terza, tradotto proprio questa estate in francese in Belgio e che sta per essere tradotto anche in tedesco, libro che peraltro ha vinto un premio internazionale in Belgio. Buonasera e bentornato, professor Focardi. Grazie a voi per l'invito. Il suo libro, professor Focardi, punta a superare dunque uno stereotipo, quello del tedesco cattivo, sanguinario, pronto a eseguire gli ordini, e quello al contrario del bravo italiano, contrario alla guerra. In realtà non è proprio così. No, il libro sicuramente destruttura, critica questa autoraffigurazione nostra nazionale italiana imperniata appunto sul bravo italiano, che è una raffigurazione che ha delle basi, perché ci sono stati anche comportamenti sicuramente molto diversi rispetto a quelli tenuti dall'ex alleato tedesco, il salvataggio degli ebrei ad esempio uno di questi, e però è un'autoraffigurazione di comodo, autoassolutoria, che appunto rispondeva a delle esigenze psicologiche ma anche soprattutto politiche di allora: evitare una pace punitiva a un paese uscito sconfitto che aveva combattuto per 3 anni a fianco della Germania. E certo, poi anche lo stereotipo del cattivo tedesco lo rivedo come viene costruito in questo caso. Anche in questo caso non bisogna dimenticare che ha le sue radici una base storica molto consistente, cioè effettivamente i tedeschi durante la guerra, come è ben noto, si sono resi responsabili di crimini atroci. Non tutti i tedeschi, e questo qualcuno in Italia tentò anche di riconoscerlo, alcuni esponenti dell'antifascismo italiano, anche molto noti come Luigi Sturzo, Pietro Nenni, leader socialista, cercarono di distinguere fra tedeschi e nazisti, diciamo tedeschi buoni e tedeschi cattivi, se vogliamo restare un po' sul titolo del libro. Poi però, ecco, la conclusione della guerra, la mancata nascita in Germania di una resistenza contro il nazismo, una resistenza tedesca contro il nazismo, insomma spazzò via un po' questi tentativi di distinzione, e ci fu la tendenza a attribuire ai tedeschi una colpa collettiva per il nazismo. Noi abbiamo parlato più volte qui alla Storia e alla Memoria di una commissione mista italo-tedesca, come dire, di riconciliazione, che possa in qualche modo ristabilire un terreno comune, se vogliamo, di storia, se non proprio condivisa, ma quantomeno ristabilire la verità dei fatti. A che punto è questo lavoro? Ma il lavoro è stato concluso, il lavoro della Commissione si è concluso nel dicembre del 2012 con la pubblicazione di un rapporto in italiano e in tedesco, dove vengono avanzati dei suggerimenti per contribuire alla costruzione di una memoria comune, anche se gli storici della Commissione non usano propriamente questa espressione. Era nel mandato ricevuto dai governi, no? Quello di contribuire a costruire una memoria comune. Il punto importante secondo me in questo lavoro, leggendo il rapporto finale, è proprio l'attenzione rivolta al problema degli stereotipi. vale a dire si sottolinea come i rapporti fra Italia e Germania, nonostante l'alleanza in ambito europeo, atlantico, no, decennale, siano stati guastati ogni tanto, no, da riemergere di stereotipi negativi nell'uno e nell'altro paese, stereotipi reciproci, legati proprio all'esperienza della guerra. Così, da un lato in Germania, non nella storiografia ovviamente, ma nella società tedesca, a lungo ha circolato e tuttora circola l'immagine degli italiani come traditori nella prima e nella seconda guerra mondiale, l'immagine della cosiddetta Wehrmacht pulita, cioè il fatto che l'esercito tedesco in Italia avrebbe combattuto in maniera onorevole senza commettere crimini che sarebbero stati appannaggio solo dell'SS, e legato a questo anche la tendenza a criminalizzare la resistenza italiana. Dall'altro lato si indica come necessario, appunto, sul versante italiano, fare i conti con la propria parte di responsabilità nella guerra dell'Asse, quindi avere la capacità di assumere, di svolgere un esame di coscienza, di assumere un ruolo non solo di vittime, gli italiani sono stati senz'altro vittime delle stragi tedesche, ma anche quello, diciamo, di carnefici o corresponsabili, insomma, dei carnefici nella guerra dell'Asse e in tanti crimini commessi a fianco dei tedeschi. Adesso parliamo del convegno che verrà organizzato a Padova l'11 e 12 novembre proprio sul rapporto tra Italia e Germania, però focalizzato nel periodo che va dalla riunificazione tedesca oggi, se ben capisco. Ecco, quali sono gli obiettivi di questo convegno, di questa iniziativa? Ma gli obiettivi sono quelli di analizzare da una prospettiva storica, che il convegno è un convegno di storici, i rapporti, il cambiamento nei rapporti economici, politici, culturali fra Italia e Germania dopo la riunificazione. Lo spunto viene un po' da un altro convegno importante che è stato fatto alcuni anni fa, nel 2007 per l'esattezza, a Trento, che aveva sottolineato la presenza di una estraniazione strisciante fra i due paesi, vale a dire un allentamento dei rapporti, un'indifferenza quasi reciproca, che lui al tempo legava alle reazioni negative tedesche nei confronti dell'Italia berlusconiana. Adesso siamo in un contesto molto diverso, caratterizzato dalla crisi economica e dalla crisi dell'euro, dall'affermazione sicuramente della Germania sul piano europeo, ma anche come global player, come attore internazionale importante, e siamo ancora alle prese con una crisi, diciamo, del sistema politico italiano, una crisi di stabilità, e appunto l'esigenza è quella di in qualche modo valutare se effettivamente si può parlare ancora di una estraneazione strisciante, di un allontanamento fra i due paesi, o invece no, oppure appunto verificare quali sono effettivamente i rapporti. Grazie allora, professor Focardi, per essere stato con noi questa sera e buona serata. Grazie a voi, buona serata.